Capitolo 8. Il cielo aveva tonalità arance rosate, l'aria era carica del profumo delle tuberose e degli aranci in fiore. Malinalli stava ricamando e Aramillo, seduto accanto a lei, fumava. Martin e Maria giocavano nel patio della casa che la coppia si era costruita. Era un bel patio, incorniciato da ampie arcate con una fontana in corrispondenza dei quattro punti cardinali. Da ogni fontana partiva un canale che portava l'acqua al centro della struttura, formando una croce argentata. Quel patio non era solo un'opera architettonica, un armonioso gioco di spazi, era un incrocio di miti, il punto di incontro di varie tradizioni spirituali. Lì Malinalli, Caramillo e i bambini intrecciavano i fili delle loro anime con il cosmo. In quell'acqua essi si riconoscevano, si rincontravano, si rinnovavano. Le persone che riescono a sviscerare dentro di sé il segreto del tutto diventano persone specchio e imparano a trasformarsi in sole, in luna, in venere, aveva detto Malinalli a Caramillo durante una delle loro prime conversazioni mentre tracciavano insieme il piano della loro nuova casa. E insieme avevano deciso che l'acqua ne sarebbe stata il centro. L'acqua piaceva moltissimo a tutti e due. Amavano accarezzarsi mentre si lavavano a vicenda con l'acqua che Malinalli profumava con le tuberose del giardino. A volte interrompevano il bagno per baciarsi e leccarsi fino allo sfinimento, e alla fine, zuppi di sudore e di seme, dovevano lavarsi da capo. Era stato il bagno il rituale a unirli. Aramillo non avrebbe mai rinunciato all'acqua come elemento basilare della sua casa. Da bambino aveva visitato l'Alhambra, rimanendo sbalordito da quel grande specchio del cielo ricco di giardini interni, canali e fontane. In quel luogo, per la prima volta in vita sua, aveva percepito la presenza di Dio. Quando Malinalli gli parlò di Tula, specchio del cielo, entrambi sentirono che c'era qualcosa che li univa al di là del corpo, del tempo, della guerra e dei morti, un Dio liquido. La casa che avevano progettato e costruito insieme era un piccolo paradiso. Tra sé e sé Malinalli benediceva i musulmani che avevano costruito l'Alhambra, lasciando un segno incancellabile nell'animo di un bambino. Grazie a loro, fra le altre cose, la sua casa era un dono per la vista, per l'olfatto, per l'udito e per il tatto. I giochi di luce ed ombra, i fiori e le piante aromatiche, il costante mormorio dell'acqua, il sapore dei frutti coltivati nell'orto donavano loro una grande felicità quotidiana. Felicità. Questa parola aveva acquisito significato piuttosto tardi nella vita di Malinalli, ma ormai il suo senso le era chiaro. Il suo cuore ballava d'allegria ogni volta che vedeva i germogli di mais spuntare nel campicello dietro casa. Il primo raccolto l'aveva ottenuto seminando i chicchi di mais di sua nonna, quelli che aveva portato sempre con sé. Un po' più in là c'era l'orto, dove convivevano in armonia ortaggi originari dell'Europa e del Messico. A Malinalli piaceva utilizzarli per creare piatti sempre nuovi, giocare con la cipolla, l'aglio, il coriandolo, il basilico, il prezzemolo, il pomodoro, i fichi d'India, i melograni, le banane, i manghi, le arance, il caffè, il frumento, il mais, il cacao. Nelle sue pietanze nascevano nuovi sapori che non rifiutavano il meticciato. I vari ingredienti si accettavano l'un l'altro senza problemi, i risultati erano spesso sorprendenti. Anche nel suo ventre, d'altronde, era accaduto qualcosa del genere. I suoi figli erano il frutto di sangui diversi, di diversi odori, aromi, colori, così come la terra produce mais bianco, rosso, giallo e azzurro e lascia che si mescolino tra loro, evidentemente era possibile creare una nuova razza di esseri umani, capace di contenerli tutti. Una razza che avrebbe dato nuova vita al creatore della vita, con tutti i suoi nomi e le sue varie forme. Era quella, la razza dei suoi figli. Le piaceva vederli correre per il patio e giocare con l'acqua delle fontane a memoria di Tule e dell'Alhambra. Le piaceva che parlassero sia nahuatl che spagnolo, che sapessero mangiare sia il pane sia la tortilla. Le dispiaceva solo che non avessero mai visto la valle della Nahuac e la grande Tenochtitlan. Lei faceva del suo meglio per descrivergliela, ma non ci riusciva. Fu così che decise di disegnare per loro un codice, il suo codice familiare, e di insegnarlo a leggerlo, a comprendere i segni. Oltre allo spagnolo, i suoi figli dovevano saper leggere anche i codici. Dice una poesia maya: coloro che guardano, coloro che raccontano, coloro che voltano rumorosamente le pagine del libro delle pitture, coloro che dominano il nero e il rosso, le pitture, sono loro a condurci, a guidarci, a insegnarci il cammino. Lei e i suoi figli dovevano sapere le stesse cose se volevano parlare degli stessi argomenti e camminare nella stessa direzione. Forse anche lei e Aramillo, se non avessero vissuto gli stessi avvenimenti, non avrebbero saputo cos'era stata la conquista. Malinalli desiderava creare una complicità analoga anche con i suoi figli e per questo era disposta a imparare a leggere e a scrivere lo spagnolo. Al mattino, seduta accanto a Martin, si sforzava con lui di tracciare lettere e numeri. Quello che attirava maggiormente la sua attenzione era il numero 8, che le sembrava una buona rappresentazione del meticciato, due cerchi uniti per il centro, per l'infinito che sta dentro ogni cosa, per l'invisibile. Di sera invece le piaceva giocare un po' con i bambini, prenderli per i piedi e farli roteare come sua nonna faceva con lei. Poi, quando era stanca, li lasciava per conto loro e si sedeva a ricamare Weepil, mentre i piccoli continuavano a correre per il patio e Aramillo, suo marito, intagliavano il legno. Secondo lei, il ricamo e la scultura in legno, più che attività artigianali, erano esercizi per coltivare la pazienza, che è la scienza del silenzio, dove ritmo e armonia fluiscono naturalmente, come tra punto e punto, tra scalpello e martello. Grazie a quel rito quotidiano, loro due avevano imparato a raggiungere stati di coscienza luminosi e a ottenere quella pace interiore e quella ricchezza spirituale che erano la loro ricompensa e il loro obiettivo. Una sera, mentre bevevano tè di foglie d'arancio, Caramillo smise per un attimo di intagliare la statuetta della Vergine di Guadalupe che voleva mettere nella stanza dei bambini per dire: «Marina, vuoi che andiamo a messa domani?» «No, tu vorresti andarci?» «No». Ogni anno gli spagnoli celebravano con una messa solenne la caduta di Tenochtitlan. A Malinalli non piaceva andarci, la turbava far rivivere i morti, i gemiti, i pianti, ma soprattutto non le piaceva che le preghiere fossero recitate davanti al Cristo crocifisso, il nuovo dio della carne inchiodata alla croce, del corpo sanguinante. La sua mente rifiutava ancora quello spettacolo orrendo, perché l'idea dei sacrifici umani le era sempre sembrata un'aberrazione. La turbava la ferita al costato, così simile a quella che i sacerdoti aprivano con il coltello d'ossidiana nel petto delle vittime sacrificate a Huitzilipotli. La turbavano la corona di spine, il sangue coagulato e secco. Tutti quei particolari suscitavano in lei un intenso desiderio di salvare Gesù dal tormento, di liberarlo. Non poteva guardarlo. Il suo sacrificio eterno era la dimostrazione che anche in quelle terre, nonostante la conquista, niente era davvero cambiato. A nulla era servita la caduta dell'impero, il sacrificio umano era sopravvissuto e sarebbe passato ai posteri. Quel Cristo in croce era dolore senza fine, morte senza fine, eterna. Malinalli non credeva che il sacrificio potesse creare la luce e tantomeno che la luce fosse nel sacrificio stesso. E così preferiva non assistere alla cerimonia per non vedere il Cristo sacrificato, preferiva avere sotto gli occhi la vita e non la morte, preferiva guardare i suoi figli, prodotto vivo della conquista, senza ripensare ai morti, preferiva baciare Jaramillo, amarlo, benedirlo, piuttosto che benedire un'immagine eternamente sacrificata. Grazie a suo marito le aveva trovato la pace, il cielo in terra. Grazie a Cortés aveva invece conosciuto la guerra, l'esilio, l'odio. La sola presenza di quell'uomo bastava a suscitare in lei un senso di disgusto infinito. Vederlo la inquietava, la disturbava, la faceva arrabbiare. Loro due finivano sempre per litigare. Anche quella sera, purtroppo, Cortés andò da loro, rompendo con la sua presenza l'incanto della giornata. Malinalli e Caramillo gli offrirono una tazza di cioccolata con la vaniglia e lo invitarono a sedersi accanto a una delle quattro fontane. Cortés, come sempre, era oppresso da mille problemi. Stava per affrontare un processo, la Spagna lo accusava di infedeltà alla corona, di tirannia, di aver disobbedito agli ordini del re, di aver commesso crimini, crudeltà e arbitri senza fine durante la conduzione della guerra, di eccessi e promiscuità sessuale, di arricchimento personale indebito, di essersi impadronito di grandi estensioni di terre, sia urbana sia rurale, di avere provocato la morte fra i tanti di sua moglie Catalina Suarez. Di fronte alla gravità delle accuse, Cortés aveva fatto i nomi di Malinalli e di Jaramillo affinché rendessero testimonianze in sua difesa. Dal tono con cui lo disse, Malinalli capì che non si trattava di una richiesta. Il capitano stava esigendo qualcosa in cambio dei favori resi a lei e a suo marito. Oltre al terreno su cui sorgeva la loro casa, Cortés aveva dato alla famigliola un'encomienda nei villaggi di Oluela e Jaltipan, non lontano da Coatzacoalcos, il luogo di nascita di Malinalli. Era vero che i due gli dovevano molto, soprattutto l'idea di farli sposare, ma Malinalli era irritata da questo modo prepotente esigere lealtà. Cosa vuoi di me? Che menta? No, che mi dimostri la tua fedeltà. Improvvisamente la sera divenne grigia, il sole fu ingoiato dall'umidità del cielo. Malinalli aveva gli occhi umidi, belli e tristi, come se stanche di guardare avessero deciso di tacere al cervello ogni immagine, di cancellare dalla memoria forme e riflessi della conquista e di un mondo che si era rivelato illusorio e ingannevole. Pronunciando il suo nome con voce grave, Malinalli disse: «Cortés, io ti sarò sempre grata per il figlio e lo sposo che mi hai dato e anche per il pezzo di terra che così amabilmente ci hai regalato affinché potessimo mettere radici. Ma non chiedermi di testimoniare, soprattutto non con quel tono. Ormai non sono più la tua lingua, signor Malinche. Da molto tempo ormai nessuno lo chiamava più così. Da quando Malinalli si era sposata con Caramillo e aveva smesso di essere la sua donna, da quando loro due si erano lasciati. Un fuoco gli si accese negli occhi e con furia trattenuta Cortés disse: «Chi credi di essere per parlarmi così?» Caramillo, che conosceva bene sua moglie, le lesse negli occhi l'imminente esplodere della rabbia e capì che stava per vomitare addosso al capitano tutto il suo odio. E così si alzò, chiese permesso, prese per mano i bambini e li portò in camera loro. Malinalli non rispose subito, prima chiamò a raccolta tutte le parole che le avevano generato dentro i momenti di dolore e di disperazione. Era stufa di quell'uomo e delle sue strategie, stufa di doverlo sopportare, obbedire, ma soprattutto stufa di essere il suo riflesso. Certo, lei avrebbe voluto essere un testimone importante al suo processo, ma quante delle cose che aveva da dire gli sarebbero ritorte contro? Cosa poteva aver visto lei, la più umile, la più cieca di tutti? Fece un profondo respiro. E parlò lentamente. La peggiore di tutte le malattie generate dalla tua ambizione non è il vaiolo o la sifilide, sono i tuoi specchi maledetti. La loro luce ferisce come il filo della tua spada, come le tue parole crudeli, come le palle infuocate che i tuoi cannoni hanno sputato sulla mia gente. Tu hai portato in queste terre gli specchi argentati, nitidi, tersi, luminosi. Guardarmi in quegli specchi mi fa male, perché il viso che mi rimandano non è il mio, è un viso angosciato e colpevole, un viso coperto dai tuoi baci e segnato dalle tue carezze amare. I tuoi specchi riflettono lo spavento che si legge nella bocca spalancata di chi è rimasto senza linguaggio e senza dei, riflettono la pietra senza il vulcano, il futuro senza l'albero. I tuoi specchi sono come pozzi asciutti, vuoti, senza respiro un'eternità. Le immagini dei tuoi specchi sono piene di grida e di crimini corrosi dal tempo. I tuoi specchi distorcono la persona che li guarda e la fanno impazzire, le inoculano la paura, le deformano il cuore, la fanno a pezzi, la dissanguano e la maledicono. L'ingannano con la loro anima scivolosa, friabile, falsa. Tu stesso hai guardato troppo a lungo in quegli specchi e ti sei ammalato perché essi ti hanno mostrato una gloria, un potere sbagliati. Ma il peggio è che il volto che vedi nello specchio e che prendi per il tuo vero volto in realtà non esiste. I tuoi specchi l'hanno dissolto e al suo posto ti mostrano un inferno allucinante. Inferno! Questa parola l'ho presa da te, ma ancora non la capisco. È il luogo che la tua gente ha inventato per maledire eternamente tutto ciò che vive. L'universo di terrore che hai fabbricato ha ritagliato la tua immagine e la tiene congelata nello specchio. I tuoi specchi sono terribili come te. La cosa che odio di più, Cortés, è di essere stata indotta a guardarmi nei tuoi specchi neri. La ricerca degli dèi è ricerca di sé. In quali nascondigli possiamo trovarci? Nell'acqua, nell'aria, nel fuoco e nella terra. Noi siamo nell'acqua, nel fiume nascosto, anche se non la vediamo. L'acqua fa parte del nostro corpo, ci circola nelle vene e noi non la sentiamo. Noi vediamo soltanto l'acqua esterna e ci riconosciamo solo nei suoi riflessi. Quando guardiamo la nostra immagine riflessa nell'acqua, sappiamo di essere anche luce, altrimenti non potremmo rifletterci. Quindi siamo fuoco, siamo il sole e poi siamo nell'aria, nelle parole. Quando pronunciamo il nome dei nostri dèi, pronunciamo il nostro stesso nome. Essi ci hanno creato con la loro parola e noi li ricreiamo con la nostra. Dèi e uomini sono una cosa sola. Il figlio del sole, il figlio dell'acqua, il figlio dell'aria, il figlio del mais nascono nel ventre della madre terra. Ogni volta che incontriamo il sole, il fuoco in movimento, l'acqua, il fiume nascosto, l'aria, il canto sacro, la terra, la carne del mais, dentro di noi ci trasformiamo in Dio. Malinalli aveva urgenza di ritrovare se stessa, reincontrando i suoi dèi. Dopo il tremendo litigio del giorno prima con Cortés, non si sentiva più nel proprio corpo. Sentiva che la sua anima era fuggita via, scappata, evaporata ai raggi del sole. Vedersi ancora una volta riflessa in Hernán Cortés l'aveva turbata. Se voleva ritrovare la luce, doveva affrontare la sua parte oscura e a tal fine doveva ripercorrere il viaggio di Quetzalcoatl nel ventre della terra, attraverso l'inframondo e trasformarsi in stella del mattino. Il ciclo di Venere è un ciclo di purificazione e rinascita. Venere, questa calcol, a tratti scompare. Non lo vediamo più in cielo perché ritorna nel ventre della madre terra a recuperare le ossa dei suoi antenati. Le ossa sono i semi, l'origine del corpo umano semina in tutto il cosmo. Prima di recuperare il suo corpo, questa Calcol deve affrontare i suoi desideri, guardarsi nello specchio nero e raggiungere la purificazione. Se ci riesce, là sottoterra, dentro il monte, il sole cederà la sua forza affinché la terra si apra e lasci germogliare la pianta che il seme nutrirà con l'acqua del fiume nascosto. E così questa Calcol, colui che scese nella terra come spirito disincarnato per prendere contatto con le forze generatrici di vita, potrà rimettere insieme la sua carne e le sue ossa. Malinalli rimase sveglia tutta la notte a prepararsi per il viaggio, poi all'alba salutò Caramillo, l'amato sposo, e gli raccomandò di avere cura dei bambini mentre lei andava a cercare se stessa al monte Tepeyac. Si sentiva tutta dolorante, ferita. Aggredendo Cortés, lo sentiva, aveva aggredito se stessa, e mentre scalava la montagna si diceva: l'acqua non aggredisce l'acqua. Il mais non aggredisce il mais. L'aria non aggredisce l'aria, la terra non aggredisce la terra, solo l'uomo che non si riconosce in loro li aggredisce, li distrugge. L'uomo che aggredisce se stesso annienta l'acqua, il mais, la terra e non pronuncia più il nome di Dio. Chi non riconosce che anche suo fratello è vento, acqua, mais, aria, non può riconoscere Dio. Desiderava moltissimo vedere Tonantzin, la divinità femminile, la dea madre, voleva pronunciare il suo nome per sentirsi parte di lei, per poter guardare i suoi figli negli occhi senza la paura di vederci riflessa la sua collera. Sapeva che per fondersi con le forze della natura e del cosmo bisogna innanzitutto immergersi nel silenzio e rivolgersi al cielo con tutto il cuore e devotamente. Sul Tepeyac, secondo la tradizione dei suoi antenati, è possibile incontrare Tonantzin, ma Malinalli non sapeva dove cercarla. Dove sei? Domandò in silenzio. Dove sei, anima delle cose, essenza del visibile, eternità delle stelle? Dove posso cercarti e trovarti se tu sei proibita, se ti hanno fatta sparire, se ti hanno strappata dalla nostra fede e hanno cercato di cancellarti dalla nostra memoria? E proprio mentre formulava queste parole mentali, trovò le risposte che cercava. Nel momento stesso in cui pensò a lei, entrò in comunicazione con Tonantzin. Dentro di sé sentì che l'essenza di Tonantzin tornava in fondo allo specchio, in fondo all'acqua, per rinnovarsi insieme a lei. Perché anche la dea ne aveva bisogno. Nel fondo, più fondo della terra, essa aveva disfatto il suo sguardo, la sua parola, il suo tatto, la sua forza, e adesso era vento, acqua, fuoco, terra, contenuta in un seme che presto sarebbe ricomparso, ma con un vestito nuovo, in una nuova forma. Sarebbe germogliata dai sogni, dai desideri, dalle voci che la chiamavano e che la circondavano. Sarebbe ricomparsa quando il suo popolo si fosse risvegliato dal sonno di morte in cui era sprofondato, dal sogno ingannevole che lo spingeva a credere che il riflesso del corpo umano fosse scomparso dal cielo, quando avesse ritrovato la fede nelle forze della natura, nelle forze della creazione, allora sì, che avrebbero potuto permeare di lei il loro spirito. Quel giorno la dea si sarebbe mostrata avvolta dai raggi del sole, sorretta dalla luna, sospesa a mezz'aria, fremente nel vento con una forma nuova, poiché la trasformazione dell'essere umano e del mondo è la trasformazione dell'universo. I Mexica erano cambiati e anche i loro dei non erano più come prima. Cambieranno forma i nostri riti, sarà diverso il nostro idioma, altre le nostre preghiere, diverso il nostro modo di comunicare, le disse Tonantzin, ma gli antichi dei, gli inamovibili, gli dei del vicino e dell'insieme, quelli che non hanno né fine né principio, cambieranno soltanto forma. Quando ebbe udito tali parole, Malinalli sentì che l'aria si faceva profumata, indizio evidente della presenza del sacro. Nel silenzio della sua mente riuscì a stabilire il contatto con Tonantzin e rispettosamente le rivolse la parola. A te, silenzio del mattino, profumo del pensiero, cuore del desiderio, luminoso intento della creazione, a te le cui carezze sbocciano come fiori, luce della speranza, segreto delle labbra, disegno del visibile, a te affido tutto ciò che amo. Ti affido i miei figli, nati dall'amore che non ha carne, dall'amore che non ha principio, da tutto ciò che è nobile, bello e sacro, a te che sei tutt'uno, con loro io ti affido. Resta nella loro mente, guida i loro passi, abita le loro parole, affinché i sentimenti che provano non li facciano ammalare ed essi non perdano la voglia di vivere. Madre mia, ti supplico, sii il loro riflesso affinché guardandoti possano essere orgogliosi di sé. Questi miei figli non appartengono né al mio mondo né a quello degli spagnoli, ma sono la miscela di tutti i sangui, iberico, africano, romano, gotico, indigeno e del Medio Oriente, e insieme a tutti coloro che nascono ora sono il contenitore che permetterà al vero pensiero di Cristo, che sa Calcol, di prendere nuovamente possesso del cuore degli uomini e di illuminare il mondo, che non abbiano mai paura, che non si sentano mai soli. Renditi visibile ai loro occhi con la tua collana di giada, con le tue piume di Quetzal, con il tuo manto di stelle, affinché ti riconoscono e sentano la tua presenza. Proteggili dall'infermità, fa che il vento e le nubi spazzino via dal loro cammino ogni pericolo e ogni male. Fa che non debbano mai guardarsi in uno specchio nero e vedersi come esseri inferiori, che non valgano nulla e che come unica mercede possano aspettarsi solo maltrattamenti e violenza. Fa che non conoscono il tradimento, l'odio, il potere, l'ambizione smodata. Appari loro in sogno e libera le loro menti dal sogno della guerra, sogno di pazzia collettiva, doloroso inferno. Lenisci le loro paure, cancellale e falle svanire. Allontanale da loro, mettile in fuga, cancella tutte le loro paure assieme alle mie, madre. Questo io ti chiedo, grazie signora, rafforza lo spirito della nuova razza che con occhi nuovi si guarda nello specchio della luna, affinché sappia che la sua presenza su questa terra è una promessa adempiuta dall'universo, una promessa di pienezza, di vita, di redenzione e d'amore. Tutto ciò era il Messico e Malinalli lo sapeva. Terminata la preghiera, si tolse la corona di perle di terracotta che portava sempre, quella che, con la tonanzin di pietra che le aveva regalato la nonna. Prese anche il suo rosario composto dai chicchi di mais con cui molti anni prima le avevano predetto il futuro e li seppellì insieme. Con quelle cose seppelliva sua madre, sua nonna, se stessa e tutte le figlie del mais. Chiese a sua madre Tonantzin di nutrire questi chicchi con l'acqua del suo fiume nascosto e di farli fruttificare per diventare il nutrimento dei suoi esseri umani che avrebbero popolato la valle della Nahuac. Chissà perché le venne in mente la Vergine di Guadalupe. La giovane dalla pelle scura, la cui immagine lei e Jaramillo avevano appeso sopra il letto. Era una vergine molto venerata in Estremadura, una regione della Spagna. Jaramillo le aveva raccontato che l'originale, scolpito in un legno molto scuro, rappresentava la Vergine Maria con il bambino Gesù in braccio e ne aveva scolpito una riproduzione per lei. Mentre lo faceva, le aveva raccontato che durante l'occupazione araba della Spagna, i frati che custodivano l'immagine sacra, nel timore di vederla profanata, l'avevano sepolta sulle rive del fiume Guadalupe, una parola castigliana tratta dall'arabo Wad al-Luben, che significa fiume nascosto. Anni dopo un pastore l'aveva ritrovata e l'immagine aveva preso nome proprio da quel fiume, Vergine di Guadalupe. Quel giorno, dopo aver seppellito il suo passato sul monte Tepeyac, Malinalli ritrovò se stessa e seppe di essere Dio, eterna e immortale a un tempo. Anche ciò che dà vita deve morire. Si trovava proprio in cima al monte. Il vento soffiava così forte da sradicare quasi gli alberi. Le foglie si staccavano dai rami e le riempivano le orecchie con la loro musica. Il rumore del vento era sempre più forte, ma Malinalli ne sentiva la forza sul viso, tra i capelli, su tutto il corpo. Il cuore del cielo si aprì per lei. Non aveva paura di morire. Tutto accanto a lei parlava di cambiamenti, di trasformazione, di rinascita. Tenochtitlan era morta e al suo posto stava sorgendo una nuova città che non era più di specchio, bensì di terra e pietra. Cortés non era più un conquistatore, ormai era il marchese della valle di Oaxaca. Anche lei tra breve avrebbe affrontato la sua ultima trasformazione. Lo accettava di buon grado, sapeva che non avrebbe mai smesso di far parte dell'universo, che pur cambiando forma sarebbe esistita per sempre. Nell'acqua delle fontane in cui giocavano i suoi figli, nelle stelle di Jaramillo contemplava la notte, nelle tortille di mais che i suoi cari mangiavano ogni giorno, nel vento che sosteneva i colibrì danzanti sulle tuberose, per sempre sarebbe rimasta nelle vie della nuova città, là dove un tempo c'era il mercato di Tlatelolco, nel bosco di Qualputec, nel suono dei tamburi e dei corni, nella neve dei vulcani, nel sole e nella luna. Seduta in silenzio, Malinalli divenne tutt'uno col fuoco, con l'acqua, con la terra. Si distrusse nel vento e seppe di essere tutto e niente. Niente poteva contenerla, niente poteva farla soffrire. Non c'erano né dolore né rancore in lei, solo l'infinito. E rimase così finché gli uccelli non le annunciarono che tra le loro piume stava calando la notte. Quando tornò dal marito e dai figli, Malinalli sembrava un'altra, irradiava pace. Li abbracciò stretti, li baciò e giocò per un po' con i bambini prima di metterli a letto. Fece l'amore con suo marito per tutta la notte. Poi uscì nel patio e alla luce della luna, prima con l'aiuto di una torcia e poi con il sole e la luna insieme, cercò di sintetizzare in un'immagine quella magica giornata. Aprì il suo codice e nell'ultima pagina dipinse una Tonantzin luminosa, protettiva, che col mantello riparava la sua casa e la sua famiglia addormentata. E quando ebbe finito, sciacquò il pennello in una delle quattro fontane. Il silenzio era assoluto. Aspirò il profumo delle tuberose, mise i piedi nell'acqua e seguì il canale fino al centro del patio. E fu là, al centro della croce di questa Kalkor, all'incrocio di tutti i cammini, nel punto in cui appaiono le Ciwateteo, le donne morte di parto che accompagnavano sempre Tlazolteltl, Coaltique e Tonantzin, manifestazioni diverse della unica divinità femminile, al centro dell'universo che divenne liquida. Fu acqua di luna. Come questa Kalkol, anche Malinalli aveva affrontato il suo lato oscuro, diventando cosciente della propria luce. La volontà di essere tutt'uno con il cosmo aveva annullato i suoi limiti corporali. Al contatto con l'acqua immersa nella luce lunare, i suoi piedi si trasformarono per primi. Non la contennero più. Il suo spirito si fuse con quello dell'acqua e si sparse per l'aria. La sua pelle si dilatò al massimo, permettendole di cambiare forma e di integrarsi con tutto ciò che la circondava. Fu tuberosa, arancio, sasso, fu profumo di coppale, mais, pesce, uccello, fu sole e luna e lasciò questo mondo. In questo preciso momento un lampo si disegnò nel cielo, come una lingua d'argento presaga di tempesta. La sua luce illuminò l'immobilità del corpo di Malinalli, morto da qualche secondo. I suoi occhi furono assorbiti dalle stelle, che in un attimo appresero tutto ciò che lei aveva visto su questa terra. Era il giorno 13 quando Malinalli nacque all'eternità. Juan Jaramillo lo celebrava a modo suo. Convocava i figli nel patio e insieme a loro lo adornava di fiori e canti, poi ciascuno leggeva ad alta voce una poesia in Nahuatl dedicata a Malinalli. Terminato il rituale, tutti restavano in silenzio per un po', in modo da impregnarsi di lei prima di andare a dormire. In contrasto con questa intima cerimonia ogni anno, nella stessa data, le autorità coloniali organizzavano una festa per commemorare la caduta della grande Tenochtitlan, avvenuta il 13 agosto 1521. La messa solenne si celebrava nella chiesa di Sant'Ippolito, perché il trionfo degli spagnoli sugli indigeni era avvenuto proprio nel giorno dedicato a quel santo. Molte volte le autorità invitarono Jaramillo a presentarvisi, ma lui declinò sempre l'invito. Qualche anno dopo si sottrasse anche all'onore di portare in processione lo stendardo di Sant'Ippolito e le autorità la giudicarono un'insolenza. Fine.